Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ronaldo punta, Ronaldo entra in area, Ronaldo sterza, può allargare per Douglas Costa, poi va di tacco da Higuain, Higuain in area, Higuain! Il Pipita fa 3-0, torna a segnare anche lui, tutto l'attacco a segno, chiude la partita, Gonzalo Higuain. Giustamente se doveva vincere per prendere 7 punti, dalla Lazio che deve giocare domani, noi abbiamo fatto il nostro ma il campionato ancora è lungo, ci sono tante partite in questo periodo, dove senza gente si può mollare di più, dobbiamo stare concentrati e sapendo che questo campionato può cambiare da un momento all'altro. Campo a disposizione, prova ad andare, tentativo di apertura, Igor tocca per un attimo, Luis Alberto fa il gol del 2-1 e la Lazio è in vantaggio sul rimbalzo, la conclusione vincente col destro, batte Drafkowski. Sono soddisfatto di oggi, della prestazione dei miei compagni. Il primo tempo siamo stati un po' sotto ritmo, però venivamo da una trasferta davvero impegnativa e come ripartenza è stata davvero tosta. Dobbiamo andare avanti, non guardare la classifica, fare quello che stiamo facendo dall'inizio di questa stagione fantastica. Noi sappiamo dove siamo ora, ma non sappiamo dove saremo tra tot partite. Ne abbiamo 11 da fare. E una alla volta ci porterà al risultato che noi meriteremo di avere. Ma dobbiamo viverle una alla volta, sapendo che le incognite saranno tante. Proprio per questo la partita che ti trovi ad affrontare deve diventare una realtà fondamentale per noi, una realtà importantissima. ...17:09:50 secondi, è una domenica ricchissima, amici, vi do subito i contatti 800-24-0024 per il numero verde per intervenire in diretta fino alle 19. Vi aspetto perché voglio sapere che cosa ne pensate anche sul grande dibattito che si è aperto a proposito ieri sera di Lazio-Fiorentina e del rigore su Caicedo, che oggi ha diviso anche le moviole dei giornali. 349-238-6666 SMS WhatsApp. Carissimo Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Beh, intanto la notizia è che dal minuto 83 di ieri sera di Lazio-Fiorentina abbiamo ancora una corsa a scudetto. Sì, beh, abbiamo ancora una corsa a scudetto perché la Lazio è stata brava, però stasera aspettiamo l'Inter e questa sarà un'altra prova importante. Poi la Juventus venerdì onestamente è andata molto sul velluto, forse più di quanto ci si potesse aspettare anche dopo la prima mezz'ora in realtà. Sì, faccio mia la definizione di un amico che l'altra sera mi ha detto: questo finale di campionato tra Juventus e Lazio, l'Inter a questo punto ha accicato al secondo colpo, la teniamo fuori, è come una finale olimpica del tiro al piattello. Rischi sì, di sbagliare sì, tutti sì. I tiri e non ti puoi permettere, non hai praticamente margine d'errore. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, ciao Pier. Ciao. Mi dici in 30 secondi, secondo te, chi sta meglio tra Juve e Lazio? Ma secondo me nessuna delle due sta ai massimi della stagione. La Lazio non è quella di prima della pausa, di prima del lockdown. La Juve è lontana, secondo me, dalla velocità di punta che può raggiungere. Però mancano 10 giornate. 10 giorni sono un arco di tempo molto lungo anche per poter crescere o per poter calare. Ma oggi chi sta meglio? Perché qui ci stiamo aggiornando di giorno oggi in giorno. Pari, secondo me. Pari? Hai ragione tu sul fatto che la sconfitta della Lazio qualcuno l'aveva, secondo me, non aveva fatto la tara alla forza dell'Atalanta, che secondo me è importantissima. Ieri non è stata la Lazio migliore, sicuramente, però intanto ha vinto una partita importante. E, insomma, secondo me siamo lì. Però ripeto, nelle prossime 10 si può calare o si può scendere, cioè non è questo, non siamo a 3 giornate dalla fine, siamo a 10 giornate dalla fine, è una vita. Dopo facciamo anche un giochino, preparatevi, nelle prossime 10 giornate dove la Lazio può recuperare qualche punto, scontro diretto escluso alla Juventus, o viceversa dove scontro diretto escluso, la Juventus può vincerlo definitivamente questo campionato. Quindi vi preparate, perché poi lo affrontiamo con Gigi De Cagno, questo tema. 17:15, quindi mancano 3 minuti a San Siro, ci sarà Milan contro Roma, quella che Pioli ha definito una sfida diretta per l'Europa. Dario Ricci, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati da San Siro sulle note di The Sound of Silence di Stranger Park, che il Milan sta commemorando i tanti tifosi scomparsi in questo difficile periodo, e fra poco però sarà di nuovo ancora Serie A, stavolta in rosso nero qui a San Siro. Per quanto riguarda le formazioni, praticamente confermate quelle della vigilia, tranne una novità in quella della Roma, ma vado subito a leggervi i 22 che fra pochi istanti scenderanno in campo sotto l'arbitraggio di Giacomelli, Alvaro, Orsato e Preti. Per il Milan, Donnarumma in porta, difesa 4 da destra a sinistra con Conti, rientrante Kier, Romagnoli, Hernandez, centrocampo con Kessi e Bennacer, poi Castileco, Bonaventura, Cialanoglu a supporto di Rebic, schierato centravanti. Nella Roma in porta Mirante, difesa 4 da destra con Zappacosta, Mancini, anche lui rientrante, Smalling e Spinazzola, questa è la novità al posto del previsto Kolarov, i due mediani in Veretout e Cristante, poi da destra a sinistra sul fronte d'attacco Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko, capitano e goleador dei giallorossi. Mi confermi la non presenza di Ibrahimovic neanche in panchina? Sì, assolutamente sì, Ibrahimovic non è neanche in panchina. Condizioni meteo, perché a Milano oggi fa molto caldo. Sì, è vero, pomeriggio caldo, temperatura intorno ai 34-35 gradi, però a quest'ora, Giovanni, il campo di San Siro è di fatto tutto totalmente in ombra, visto appunto la proiezione dell'ombra da parte delle tribune, quindi questo in una giornata non particolarmente umida potrebbe alleviare il disagio dei giocatori. Immagino che ci saranno i cooling break, perché è inevitabile. Sì, credo scattino sopra i 32 gradi, combinati poi all'umidità, però insomma oggi a Milano fa davvero caldo, è una giornata davvero calda. Da questo punto di vista la protezione che le tribune offrono al terreno di gioco di San Siro, che dunque è completamente in ombra, è chiaramente un vantaggio per i giocatori di Milan e Roma, ma si tratta comunque di una partita che si gioca in condizioni ambientali complicate, partita che noi vi racconteremo in diretta fino alle 19 con il nostro Dario Ricci e quindi con continui collegamenti con lo stadio di San Siro. Abbiamo il traffico, quindi la prima sosta 800 24 00 24, vi invito, numero verde per chiamare, prenotarvi, intervenire da qui alle 19, 349-238-6666, sms e whatsapp. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24, 800 24 00 24, tutti convocati. Tutti convocati. L'importante è che noi pensiamo a noi, che continuiamo a fare risultati e continuiamo la mentalità di stasera, nonostante le difficoltà iniziali, poi la mentalità mi è piaciuta molto e quindi pensiamo a noi stessi e pensiamo ad andare avanti. La condizione deve migliorare, come deve migliorare per tutte quante le squadre. Io posso dire solo che ai miei ragazzi che dobbiamo ragionare partita dopo partita, adesso dobbiamo ancora fare qualche punto perché dobbiamo guadagnare la Champions, che sicuramente è il nostro obiettivo dichiarato, è il nostro primo scudetto, poi vedremo quello che succederà da qua alla fine, ma chiaramente l'obiettivo è quello di ragionare partita per partita. Questi Sarri e Inzaghi dopo le rispettive fatiche. Adesso torniamo sul duello tra Juventus e Lazio. Sta per avviarsi invece Milan-Roma. Saluto Gigi De Cagno, ciao Gigi. Ben trovati. Ciao, ben trovato anche a te. Noi ci eravamo lasciati prima con la domanda su Lazio-Juventus. Voglio sapere anche te, Carlo, cosa ne pensi. Cioè, chi sta meglio delle due? Ma guarda, a me sinceramente la Juventus l'altra sera non ha fatto una grandissima impressione, poi al di là dei gol molto belli, della sua artiglieria pesante eccetera, però non ho notato grandi progressi in questa partita, difficilmente giudicabile, la Lecce anche in 10. La Lazio, beh, insomma, ieri sera dopo la sconfitta di Bergamo si trova di fronte a un ostacolo non bassissimo. La notizia è che abbiamo rivisto i gol di Immobile e Luis Alberto, che contro l'Atalanta erano stati molto in ombra, quindi se devo dare un segnale positivo tra le due, mi sembra quello della Lazio in questo senso. Sì, sì. A me sembra che la Lazio vada un po' a strappi, l'ho fatto a Bergamo, sì. Lo ha fatto anche ieri. Detto che la Fiorentina con o senza Ribéry sono due squadre diverse. Gigi, chi hai visto meglio delle due? Parlate di Lazio e Juve. Sì. Sono d'accordo con quanto detto prima. La Juve, a parte un po' Bologna a tratti, e poi tenta moltissimo sul piano della manovra e sul piano fisico. Non dà l'impressione di essere un po' ferma sulle gambe, insomma. Ma è un problema di brillantezza solo? Questo non lo so, perché non posso capirlo, perché quello che è accaduto, insomma, credo che abbia stravolto qualsiasi logica, qualsiasi idea. Quindi c'è chi può aver reagito in un modo, chi in un altro. Fatto sta che questa Juve in queste partite non ha convinto del tutto, del gioco. Certo, a me Pier, quella di venerdì sera è sembrata una Juve che ha fatto nettamente un passo indietro rispetto a Bologna, cioè il 4-0 non deve ingannare, ha giocato 70 minuti in superiorità numerica contro una squadra candidata a essere retrocessa o che comunque deve lottare. L'inizio è stato difficile, ma io appunto sono d'accordo, cioè la Juve non è brillante. Ora, il fatto che non sia brillante può essere una buona notizia o una cattiva notizia. La cattiva notizia per i tifosi della Juve è che non è brillante. La buona notizia è che se cresce un po', considerato che ha già un vantaggio, può blindare questo campionato. Io credo che dipenderà molto da anche un po' dal calendario, nel senso che ieri sera per esempio la Lazio è andata un passo da anche semplicemente da un pareggio che avrebbe forse cambiato, credo, anche psicologicamente gli umori. Io diciamo la verità, dai, col pareggio, a maggior ragione con la sconfitta, oggi staremo parlando di campionato chiuso davanti. Sì, anche se secondo me non sarebbe chiuso. Io dico la verità, io penso che, lo sai, l'abbiamo parlato sempre, prima del lockdown la Lazio era la mia favorita, perché secondo me andava a un ritmo talmente superiore rispetto a tutte le altre che era proprio tutta l'inerzia, andava in quella direzione, e poi aveva un vantaggio fondamentale che era quello di giocare una partita a settimana non avendo le coppe, e adesso quel vantaggio non ce l'ha più, adesso si gioca tutti ogni tre giorni ed è una gestione clamorosa delle energie. Ieri Inzaghi a precisa domanda ha risposto sul fatto che ieri contro la Fiorentina la Lazio ha scelto un approccio molto diverso rispetto a quello di Bergamo. A Bergamo aveva cominciato forte e poi ha pagato contro una grande Atalanta. Ieri ha fatto una partita mettendo insieme i pezzi, chiedendo dei sacrifici agli infortunati, lottando fino al 90esimo, poi vedremo ovviamente adesso con Marelli gli episodi, però al di là di questo l'approccio di Inzaghi è stato assolutamente di gestione della situazione. Perché? Perché sa che è corto, perché sa che ha dei giocatori che non sono in condizione. La Juve non è che stia tanto meglio, quindi in questo momento secondo me è veramente una battaglia fra pugili non brillantissimi che devono gestire le energie, e ripeto, è una gran fondo, non sono i 100 metri, quindi è chiaro che 4 punti sono un vantaggio importante, per cui se la prima a sbagliare qualcosa dovesse essere la Lazio, forse anche psicologicamente se buca il secondo forte, piattello, no? Di questa finale olimpica, appunto. Carlo, però rischia di essere fuori. Ad oggi quasi alla pari il duello, Sì, è una guerra di trincea, è una guerra di trincea, ed è vero. Due notazioni: la prima, ne accennava Pierluigi, la Juventus ha il grande vantaggio rispetto a condizioni normali di vivere un momento non brillante, ma di non avere gli scogli delle coppe su cui spesso si incaglia. Avesse anche la Champions League di mezzo, sarebbe veramente una brutta situazione. La seconda è che mi viene, visto che sono due squadre non brillanti, mi viene in mente l'Inter e quello che ha buttato via con il Sassuolo, e anche qui se ne può riparlare. C'è la possibilità veramente di rientrare. Conte, dai Giovanni, non può Conte fare tutto quel turnover e modificare così tanto una squadra che stava convincendo in partite che non puoi sbagliare, perché vale il discorso del tiro al piattello di anche prima. Se c'è una parte che noi non sappiamo, Gigi De Canio ce lo potrebbe spiegare, cioè noi non li vediamo durante gli allenamenti, per cui magari poi scopri che alcuni giocatori stanno fuori perché sono pesantemente a rischio infortunio. Fatemi penso soprattutto a Barella, in tanti Inter Sassuolo si sono chiesti perché sta fuori Barella, che a metà campo è l'anima dell'Inter in questo momento. Credo che Conte questo, e poi scopri che lo sappia prima di tutti, no? Lo sappiamo noi che lo vediamo da fuori, e che come avete detto prima soprattutto in questo periodo, dopo un periodo così lungo di inattività, partite così ravvicinate che possono creare presupposti per infortuni molto seri. Certo, e già dei problemi a metà campo l'Inter ne ha. Gigi, che impressione ti ha fatto Inzaghi? L'abbiamo sentito prima dire, l'intervista è di oggi, quindi diciamo a freddo, dopo la grande paura e anche l'euforia di ieri sera, dire ma noi adesso facciamo qualche punto perché mettiamo a sicuro la Champions, che in fondo era il nostro grande obiettivo. Credo che gli si allunghi un po' il naso. Ma è un modo per provare a scaricare un po' di pressione, cioè magari si è reso conto che forse sono caricati un po' troppo. Giusto, scaricare un po' di pressione, perché io credo che la prestazione non brillantissima contro la Fiorentina, al di là dall'aver incontrato una squadra forte, tonica, con Ribéry che ha ridato anche morale, fiducia e certezze alla Fiorentina, ma si affiglia anche della rimonta subita contro l'Atalanta, perché la Lazio è andata in vantaggio due volte giocando anche bene contro una grande Atalanta, e quindi quando si è vista rimontata ha capito di aver perso tre punti probabilmente fondamentali nella corsa allo scudetto, e quindi oggi, per abbassare un po' la tensione, Inzaghi giustamente dice ok, il nostro primo obiettivo resettiamo tutto. Rimane resettiamo tutto. Resettiamo tutto. Obiettivamente, prima di questo lockdown, forse la squadra, ma probabilmente senza forze, la squadra favorita per come giocava, per mentalità, per la condizione psicologica, eccetera, era proprio la Lazio. Quindi sei d'accordo con Pier? Sì, d'accordo con Pier? Prima del lockdown favorita la Lazio, dopo le carte sono rimescolate. Il paradosso è che la Lazio è anche la società che ha fatto di più per ritornare in campo, proprio per potersi, per potersi giocare questo scudetto, ma potrebbe esserci rientrata a gerarchie ribaltate. Si sta, perché comunque insomma è chiaro che la storia recente di Juve e Lazio in campionato è diversa, la storia di Juve e qualsiasi altra squadra, devo dire, è diversa negli ultimi anni, quindi è ovvio che la motivazione della Lazio di potersi giocare lo scudetto punto a punto sia enorme, quindi insomma questo è assolutamente comprensibile. La Juve vince da tantissimi anni, non credo che questo significhi avere la pancia piena, però sicuramente insomma dal punto di vista ambientale, e questa può essere una stagione storica per la Lazio, può essere l'ennesima stagione vincente per la Juve, ecco, è un po' diverso. Sì, c'è un approccio diverso. Ancora 0-0 intanto a San Siro tra Milan e Roma, tra un po' andremo dal nostro Dario Ricci. Allora, vi siete preparati? Adesso vi leggo le 10 giornate che attendono la Juventus, le leggo anche a Gigi De Cagno. E a parte lo scontro diretto, che è intuitivo, se una vince si avvantaggia rispetto all'altra, vorrei sapere da voi, secondo voi, se esistono delle giornate in cui la Lazio può recuperare sulla Juventus, o viceversa la Juve se lo può portare a casa in anticipo questo scudetto. Allora, quando si torna in campo per la 29esima, la Juventus va a Marassi col Genoa e la Lazio va all'Olimpico di Torino con il Torino, poi Juventus-Torino e Lazio-Milan, poi Milan-Juventus e Lecce-Lazio. Quindi ci sono Juventus-Atalanta, 32esima giornata, e Lazio-Sassuolo, ancora in trasferta nella 33esima, tutte e due, la Juventus contro il Sassuolo e la Lazio a Udine, poi c'è lo scontro diretto, le ultime quattro. La Juventus gioca a Udine, in casa con la Samp, a Cagliari in casa con la Roma, la Lazio gioca col Cagliari, a Verona in trasferta, col Brescia in trasferta a Napoli. Carlo, dov'è il mismatch? Ma la Juve all'Atalanta che in questo momento non vuole affrontare nessuno, e poi anche la partita col Milan che vediamo in Coppa Italia, che tra l'altro sono di fila, non credo che sbracchi. Prima la trasferta a San Siro e poi in casa con l'Atalanta. Lo snodo è quello, però le condizioni sono talmente così non perfette che la scivolata può essere in ogni angolo, però è intuitivo dire che quel momento lì sarà quello chiave. Pier? Allora, al di là del fatto che è chiave lo scontro diretto, nel senso che se la Lazio vince lo scontro diretto a Torino, sì, però se ci arrivi a 6-7 punti, no, sì, esatto, è diverso che arrivarci a 1 o a 4. Penso che le prossime due partite erano 3 con quella di ieri, che infatti era importantissima, Lazio-Fiorentina, erano 4 con quella di Bergamo, siano favorevoli sulla carta per la Juve. Poi c'è una settimana invece che è quella di Milan-Juve e Juve-Atalanta, nella quale la Lazio può sicuramente recuperare. Quindi, quindi se tiene me, botta adesso la Lazio prima, cioè, secondo me se la Juve, se la Lazio cede qualcosa, difficile che possa succedere a Torino. Col Milan vedremo, insomma, e dovesse scendere a meno 6, meno 7, arrivare, secondo me può cambiare un po'. Per questo secondo me il passaggio di ieri non è affatto un passaggio banale, è un passaggio molto importante, perché poi invece il calendario ci sarà un momento in cui sarà favorevole per la Lazio. Poi c'è lo scontro diretto e forse è anche giusto che sia così, nel senso che poi se veramente arriveremo punto a punto è anche giusto e bello che ci sia una sfida e si veda chi è il migliore. Dopo attenzione che nelle ultime 4 è un po' meglio il calendario della Juve. Gigi? Io sinceramente penso che le partite possano come dire, presentare delle sorprese in ogni momento, perché è successa una cosa straordinaria. Si gioca ogni 3 giorni, la Juve è quella più abituata a giocare ogni 3 giorni, ma anche la Juve, che oltre ad una condizione approssimativa ha problemi di formazione, ha problemi di infortuni, quindi è chiaro che finché riescono i suoi campioni a risolvere la partita si porta il risultato a casa, però ha sempre bisogno, vista la situazione, dell'acuto dei suoi campioni, e se in qualche partita qualcuno dovesse steccare può non fare risultato. Ma lo stesso dicasi della Lazio, cioè bisogna che entrambe ritrovino la più in fretta possibile la migliore condizione fisica possibile. Sì, cosa che credo sia impossibile, vista la situazione. Credo che sia impossibile, ma recuperare un giocatore per alternare, dare la possibilità di ripiatare, di recuperare le energie. Proprio fisiche, 3 mesi di inattività. Voi pensate che quando arriva il fine campionato c'è un mese di sosta, alla ripresa dopo la preparazione per i calciatori si parla comunque di ritrovare la una condizione. Sì. Pensate dopo 3 mesi di inattività e con tutto lo stress psicologico di una situazione così pericolosa come quella che ma soprattutto adesso tutti, giocando, perché non si allenano più, cioè non si allenano più. E quindi la condizione di forma per ogni calciatore è altamente suscettibile di variazioni di momenti. Quindi la Juve, certo, ha 4 punti in più in questo momento, sono comunque importanti, ha un'esperienza grande e quindi sono tutte considerazioni che valgono, ma se la Lazio dovesse ritrovare quella fluidità di gioco, l'entusiasmo che ha avuto finora, la può ribaltare o comunque può farci divertire e vedere il campionato fino all'ultima giornata. Comunque ci stiamo divertendo. Allora dobbiamo fermarci. Saluto e ringrazio Gigi De Canio. Ciao Gigi, grazie, alla prossima. A voi, grazie a tutti. Alla prossima. Andiamo a San Siro per farci raccontare questo primo quarto d'ora di Milan-Roma da Dario Ricci. Dario. Sì, 14° di gioco, Giovanni, direi nulla da segnalare. Tabellino e quadernino degli appunti ancora in tonso, 0-0, quindi ma con gli spunti tattici finora le squadre chiaramente con moduli speculari e molto dense a centrocampo, per cui molto attente nella fase di chiusura, ma davvero illuminante la regia offensiva di Dzeko. Milan che trova un pochino più di spazio a destra, perché evidentemente sull'altro lato Roma preoccupata dalle potenziali finora discese di Theo Hernandez, e allora ogni tanto è capitato di impostare anche a Conti. Sempre su quel lato tutto fare Castileco, che prova a rendersi pericoloso anche scambiandosi di posizione al centro dell'attacco con Rebic, ma è pronto a chiudere anche in fase difensiva come accaduto un paio di minuti fa. Adesso c'è un attacco della Roma con Kluivert, il cross al centro, prova a concludere Pellegrini, ribattuto in calcio d'angolo, il primo angolo della partita, che arriva al 15° di gioco sul risultato ancora di 0-0. Attenzione, perché questa è una partita che Milan e Roma non possono pareggiare, cioè magari finisce 0-0, magari pareggiano, in realtà tutte e due hanno bisogno di vincere. La Roma, se vuole in qualche modo tenere vive le speranze di agganciare l'Atalanta al quarto posto, che vale la Champions League, e il Milan, se ha bisogno, come ha bisogno, di riuscire a riagganciare il treno Europa. Ci fermiamo un minuto, torniamo. Luca Marelli con Varanatomi, state scrivendo in tantissimi sul rigore di Caicedo. Vi dico che io sono meno scandalizzato di alcune cose che ho letto questa mattina. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Gli episodi l'hanno determinata. Punizione di Bastos al primo tempo che non è stata data, il calcio di rigore che secondo noi è dubbio e anche il rigore su Ribéry, ecco. Gli episodi hanno determinato questo. Questa non è espulsione questa, cioè, sto ripetendo adesso. C'è state situazioni che secondo noi ci hanno penalizzato fortemente. E anche il problema che noi lo abbiamo visto subito sul campo, che sono saltati tutti e due. Non c'è stato il rigore, c'è stato secondo me l'errore dell'arbitro. E sì. Poi nel momento in cui si dà un rigore c'è anche il VAR, quindi questo è il secondo errore. Tu vai a vedere il VAR e poi lo dai, ma si guarda per bene. Intanto 20 minuti di Milan-Roma 0-0, prima conclusione di Mkhitaryan che ha costretto Donnarumma a distendersi sul diagonale a mettere la palla in calcio d'angolo. Dai, allora, tuffiamoci nell'episodio di cui sta discutendo Mezza Italia da ieri sera. Stiamo parlando del calcio di rigore che ha consentito alla Lazio di pareggiare contro la Fiorentina. Saluto Luca Marelli, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Con noi Pierluigi Pardo e Carlo Genta. Allora, oggi ho letto, carissimo Luca, delle moviole un po' discordanti. La Gazzetta dice che il rigore ci sta, si può dare, altri lo bollano come inesistente, quasi simulazione. Parliamo del contatto fra Drongoschi e Caicedo. Volevo un po' capire qual è la tua impressione. Guarda, già il fatto che ci siano persone che si occupano regolarmente di episodi che sono discordanti tra loro ci dà una risposta, cioè che non è un chiaro ed evidente errore. Perché se tu sei ci sono e che non è neanche uno scandalo aver dato il rigore, questo è il mio parere, non so il tuo. Il mio parere è semplicemente che questo è un calcio di rigore molto generoso, che se non l'avesse fischiato non sarebbe successo assolutamente nulla, ma che il problema rimane sempre lo stesso, cioè l'interpretazione e la comprensione soprattutto di un protocollo che è stato scritto in maniera rigida proprio per evitare che ogni volta si debba andare a rivedere le immagini, perché il VAR non è una moviola in campo. Il VAR, come è scritto sulla prima pagina del protocollo, deve essere il meno invasivo possibile, perciò la gran parte delle decisioni assunte in campo devono essere confermate se c'è un minimo di sensatezza, semplicemente. Cioè, poi dipende anche da come lo si guarda. Il tifoso della Lazio vede un minimo contatto. Un tifoso di un'altra squadra ma neanche minimo, cioè il contatto, esatto, c'è. No, perché secondo me vorrei sapere anche da Carlo e Pier, insomma, allora diamo alcune cose senza stare a discutere. La prima è che il contatto dopo c'è ed è anche robusto, perché Drongoschi prende Caicedo in maniera evidente. L'altra cosa è che sicuramente Caicedo inizia a trascinare il piede, la gamba destra qualche istante prima e certamente va a cercarsi quel contatto, no Pier? Io direi che diciamo su questo possiamo essere d'accordo tutti senza stare a discutere, ma la domanda che vi faccio io, ma voi siete proprio sicuri che se il VAR avesse diciamo richiamato l'arbitro Fabbri si sarebbe sentito in dovere di cambiare la sua decisione? No, sicuro no. A me sembra... Carlo, è un rigore non evidente, no, ma è un rigore non evidente, però non è uno scandalo dare quel rigore, quindi quando un rigore non è evidente tutti corriamo verso il VAR, ma non ha detto, cioè, ovviamente bene il professor Marelli, cioè, no, se dobbiamo andare a vedere ogni episodio facciamo notte, cose che abbiamo detto mille volte. Secondo me non è uno scandalo aver dato quel rigore, non è un rigore colossale, ma non è neanche un rigore da non far è per intenderci una simulazione. Noi anche prendiamo le dichiarazioni di Pardè e anche di Iachini, Pradella abbiamo sentito, io ieri me lo ricordo benissimo, credo che siamo più arrabbiati per altri episodi che per il rigore. Sul rigore parlano di episodio dubbio. Ora, Caicedo usa tutta la furbizia, si prende quella posizione lì, cerca il contatto, sicuramente non fa niente per rimanere in piedi, accentua la caduta. Prokoski legittimamente ha la sensazione che sia Caicedo che va verso di lui e non il contrario, però lo sappiamo, quello è un contatto che l'arbitro vede. Oltretutto noi, insomma, nel post partita ieri abbiamo fatto rivedere quel labiale dell'arbitro che dice lo prende, che credo sia, credo, sento poi che cosa dice Marelli, il motivo per il quale poi il VAR non interviene, perché che succede? Che l'arbitro di campo vede il contatto, lo giudica in quel modo e quindi a quel punto il VAR non può intervenire dal protocollo, giusto o sbagliato che sia, è così Marelli? Perfetto. Ecco. Quindi questo è quello che poi succede dal punto di vista tanti tifosi della Juventus oggi ti dicono, è vero, lo prende perché è innegabile, ma in realtà lo prende perché è Caicedo a creare le condizioni perché accada, e allora perché non interviene il VAR? Ma qui entriamo sempre nella soggettività. Io credo che la lamentela della Fiorentina sia più su altri episodi, nel senso che poi adesso nel ne finale parliamo. Sia Parolo che Radu, insomma, vengono... Sì, Luca, nel finale Fabri non ne ha prese molte. C'è anche la cosa di Bastos che... Quindi devo dire, c'è un insieme di elementi, c'è anche una mano di Badel, però non so, magari adesso Marelli vuole fare. Vai, Luca. Facciamo episodio per episodio, perché sennò. Ma andiamo velocemente per il nodo cronologico. Vai. Da Ribéry in poi. Da Badel non è assolutamente rigore, perché è un pallone inaspettato, e soprattutto il braccio è vicino al corpo, col volume e col foro, perciò non c'è assolutamente nulla. Quanto riguarda Bastos, nel calcio la fortuna conta. Vi faccio un esempio: ieri in Culù è entrato in una maniera assurda con quel braccio altissimo. Se avesse preso il pallone col braccio sarebbe stato rigore sempre. In realtà l'ha preso con la spalla, è stato fortunato e non è calcio di rigore. E lo stesso vale per Bastos: se fosse entrato un decimo di secondo più tardi avrebbe preso Gezal in pieno, invece gli è passato davanti. E poi il contatto è avvenuto con la coscia destra, perciò il cartellino giallo è corretto in quel caso, anche se l'intervento è brutto e visivamente, ma per gli effetti non è cartellino rosso, perché non è buco sproporzionato, è un fallo imprudente. Su Ribéry, se l'arbitro l'avesse il rigore chiesto dalla Fiorentina a contatto con Patrick, esatto, se avesse chiesto il calcio di rigore il VAR non sarebbe intervenuto, per il semplice motivo con contatto c'è stato. È stato giusto non fischiarlo perché è stato un contatto totalmente casuale. Ho apprezzato molto il gesto di Ribéry, che girandosi verso l'arbitro gli ha fatto un segno. Sì. Esatto, poi Radu su Badeli, 33esimo secondo tempo, solo un monito. Quella è espulsione sempre. Espulsione quella netta. È sproporzionata, perché se abbia toccato il pallone conta poco. Gli è entrato sulla caviglia, sopra la caviglia, vuol dire che aveva la gamba alta, tra l'altro il ginocchio era quasi completamente teso e c'era velocità. In quel caso il VAR doveva intervenire. Poi mancano due munizioni chiare, quella di Parolo è un fallo che viene nella categoria della SPA, l'azione potenzialmente Parolo che era già ammonito, Esatto, Vlahovic. Sì, esatto, l'ho sottolineato, non era un fallo cattivo, era una trattenuta leggera, però il giocatore della Fiorentina stava andando verso la porta, Parolo già ammonito, lì c'è il secondo giallo. Certo. È automatica. Una volta che si interrompe il gioco per la trattenuta di Parolo, la munizione è automatica per SPA. Io quando succedono queste cose, Luca, mi chiedo sempre come fa un arbitro, una volta che ha visto il fallo, pacifico, tranquillo, non tira fuori il cartellino. Perché Fabio era completamente nel pallone. Dopo il rigore che ha dato alla Lazio, non so cosa sia successo, probabilmente qualcosa gli ha fatto capire di essere stato al centro di un episodio che sarebbe diventato centro delle discussioni. Però dal quindicesimo secondo tempo in poi è andato completamente nel pallone. Certo. Tanto è vero che ha arbitrato bene per 60 minuti, gli ultimi 30 sono stati un disastro. Cioè ha arbitrato molto bene 60 minuti e molto male gli ultimi 30, a prescindere, ripetiamo, dal rigore. Poi l'ultimo episodio è un'altra ammonizione, credo che manchi, no? Che avrebbe portato a un rosso. Badu, ecco lì invece proprio perché era nel pallone e probabilmente ha preferito non decidere, ha lasciato correre due falli consecutivi di Badu su Sottil, ha dato un vantaggio che sinceramente non aveva alcun senso, perché il pallone era sulla fascia destra molto decentrato con la difesa schierata. In quel caso doveva interrompere la munita la seconda volta Radu, che sarebbe stato espulso. Vi dico un dato che oggi mi ha girato Luca Marelli, ne parleremo settimana prossima. Stagione 2018-2019, in tutto il campionato 122 rigori. Stagione 2019-2020, mancano 10 giornate più tutte le partite di oggi, siamo già a 133 rigori. Cercheremo di capire se questo è un problema, un bel segnale, ma ne parliamo, Luca, settimana prossima. Ciao, grazie, alla prossima. voi, buon lavoro. Ciao. Allora, adesso andiamo, flash, veramente flash, 30 secondi, da San Siro, Dario Ricci, Milan-Roma. Poco più di un minuto alla mezz'ora, ancora 0-0, ma qualcosa è entrato nel tabellino, un'occasione per parte, al 20° vicino al gol della Roma, il cross di Kluivert deviato, cross dalla sinistra, Dzeko da non più di 4 metri di testa fuori incredibilmente, e pochi istanti fa, pochi minuti fa, al 27°, buona occasione invece per il Milan, un colpo di tacco di Rebic al limite dell'area che libera Bonaventura, il destro del numero 5 rossonero è però alto sulla traversa della porta difesa da Milano. 0-0 alla mezz'ora qui a San Siro tra Milano e Roma. Grazie Dario, traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Stavo rivedendo, Carlo, il gol che ha sbagliato Dzeko, che ci raccontava prima Dario Ricci. Incredibile, sì. E qualche errore grave l'abbiamo visto negli ultimi giorni, cioè quello di Gagliardini batte tutti. Però da ieri Dzeko, Bastos ne ha fatto uno, è stato fortunato perché alla fine è stato fermato, sì, tutto per fuori gioco, ma ha sbagliato letteralmente a porta vuota. Ne stiamo vedendo tanti, errori talmente colossali da farti pensare che vabbè, è proprio un momento strano per tutti, perché Dzeko, che peraltro abbiamo visto l'altro giorno a segnare due gol, uno più bello dell'altro, cioè e uno più difficile pazzesche di altro, sì, è il classico infortunio, come quello è stato interessante prima Luca Marelli quando diceva l'arbitro di ieri sera è rimasto quasi sotto shock dopo quell'episodio del rigore, ha riflettuto sul fatto, oddio adesso ne parliamo per una settimana, è stato quasi come l'attaccante di sbagliare il gol. Sì. Esatto. Allora, saluto Guido De Carlo di Corriere della Sera, ciao Guido. Buonasera a tutti, buonasera. Parliamo un attimo di che cosa avverrà questa sera 21:45 a Parma, tra Parma e Inter. Intanto mi confermi che non ci sarà Brozovic, Guido? No, non è convocato, è rimasto a Milano perché insomma deve ancora recuperare dall'infortunio. Ma c'è anche un po' di precauzione prossima, o cosa? Sì, c'è molta precauzione, nel senso che il giocatore in realtà non è come Sensi, che comunque aveva una degenza lunga. Il giocatore di ieri si è allenato, sta abbastanza bene, mercoledì dovrebbe essere a disposizione di Conte. Io sono molto curioso, ve lo dico, parto da Guido De Carolis, di vedere un po' l'approccio questa sera dell'Inter dopo la doccia fredda col Sassuolo, perché fino a un minuto prima di Inter-Sassuolo l'Inter giocava per rientrare nella corsa Scudetto, adesso io non lo so per che cosa si sia riprogrammata, Guido. Ma guarda, si deve riprogrammare in fretta per il secondo posto, nel senso che la Lazio comunque, se l'Inter dovesse vincere stasera, sarebbe comunque a 4. Quindi è comunque un traguardo abbordabile. Ma è un obiettivo che interessa, Guido? No, non è un obiettivo che interessa la società, è un obiettivo che interessa Conte, ma vi spiego velocemente il perché ci tiene comunque a migliorare e di parecchio sensibilmente rispetto a quello che è stato il cammino l'anno scorso, e tutti ricorderete che l'anno scorso l'Inter all'ultimo minuto dell'ultima giornata contro l'Empoli grazie alla traversa di D'Ambrosio. È chiaro che in campionato l'Inter sta facendo meglio rispetto al passato perché ha già 8 punti rispetto all'anno scorso, però stringi in Coppa Italia è andato in semifinale e non è riuscito ad arrivare in finale, il Champions League è uscito dove è uscito Spalletti e in Europa League è tutto da giocare. È chiaro che comunque portare a casa un secondo posto che l'Inter non vede ormai da 10 anni, insomma sarebbe già qualcosina. Aiuterebbe Conte, aiuterebbe Conte. Esatto. Pier, come te l'aspetti l'Inter stasera? No, mi aspetto assolutamente una reazione perché l'Inter Sassuolo mi è sembrata una leggerezza e un eccesso di turnover, probabilmente anche con delle colpe dell'allenatore, insomma è chiaro che si cerca di gestire, no? Proprio per quello che dicevamo prima, una partita ogni 3 giorni, problemi fisici, tanti infortuni, centrocampo decimato, c'erano Sensi, Brozovic assenti la settimana scorsa, quindi sicuramente non era la condizione migliore, però poi alla fine i conti devi fare, quindi se perdi un'occasione come quella col Sassuolo poi è chiaro che il processo arriva. E no, oggi mi aspetto una reazione, mi aspetto una squadra che in questo momento ha poco da chiedere. Mi verrebbe quasi da pensare che tutto questo, se lo guardiamo da un punto di vista puramente nazionale, sia un periodo di preparazione all'Europa League. Ma per questo io dicevo interessa il secondo posto. È un discorso un po' assurdo, no? Però l'Inter è in una condizione che a meno di miracoli non riuscirà a vincere il campionato e non arriverà quinta, arriverà sicuramente in Champions League l'anno prossimo, quindi da un certo punto di vista, però io oggi mi aspetto la reazione contro una squadra, però attenzione che è una delle più in forma, è una squadra che gioca un buon calcio. L'abbiamo visto anche a Marassi. No, ma questo secondo me è un tema interessante, ragazzi. Cioè, poi avremo tempo per approfondirlo anche nelle prossime settimane. Con tutta la comprensione per il desiderio di Conte di far meglio di Spalletti, con ad agosto l'Europa League che ti gioca in 5 partite, no, Carlo? Io insomma provo a sintetizzarlo e anche a brutalizzarlo. Chi se ne frega del secondo posto, no? Uno gli potrebbe dire. Assolutamente chi se ne frega del secondo posto. Il secondo, terzo non cambia niente se non per gli almanacchi e le statistiche. Ma proprio perché l'Europa League è laggiù in fondo, alla fine del campionato, in un momento strano in cui Juventus e Lazio, è chiaro che hanno un vantaggio importante, però non convincono. Cioè, una settimana fa eravamo qui a parlare del veleno di Conte. Tu dici che c'è ancora spazio per immaginare qualcosa? Ma sì, ma perché no? Perché sono 11 punti in questo momento. Sì, lo so, sono 11 punti, ma data la stranezza del momento, io mi aspetto che l'Inter giochi proprio con il totale, quasi con incoscienza, in senso positivo, tutte le senza partite pressioni. Resta, senza fare troppi conti, sì, senza pressioni, perché secondo me lo spazio potrebbe esserci ancora, dato che di queste tre fino adesso, al di là delle frittate con Sassuolo, l'Inter sembrava quella che ti è piaciuta di più. Guido, abbiamo 30 secondi, 30 veramente, e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ma secondo te, da piano qualcuno ci crede ancora allo scudetto, all'operazione scudetto? No, da piano non ci crede nessuno all'operazione scudetto. Sono molto realisti, e tanto che si sta lavorando per la prossima stagione. Il colpo di Hakimi è anche in questo senso, si stanno buttando le basi per quella che sarà la prossima stagione, che ha le porte, ricordo, perché il 12 di settembre si ricomincia. Il finale di campionato, dicevate giustamente, è una preparazione all'Europa League, sì, però ti prepari bene anche mentalmente se riesci a fare risultato, altrimenti ci arrivi anche scarico. Quindi sì, io credo che se lavori con serietà. Nel finale di campionato, insomma, non sbracherà, ecco, non molla. Grazie Guido. Grazie a tutti voi. Grazie, buona partita. Salve e buon lavoro questa sera 21:45 Parma-Inter. Saluto anche Pierluigi Pardo. Ciao Pierre. Ciao. A domani. Dario, solo flash col risultato da San Siro. 38esimo di gioco, c'è stato il cooling break, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Milan e Roma. Milan e Roma che continueremo a raccontare dopo il GR delle 18 e affronteremo anche tanti altri temi di questo fine settimana calcistico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come Sammontana, che da Empoli ha conquistato il mondo dei gelati, dell'acquasanteria e non solo. Sentiamo uno dei titolari amministratore delegato, Leonardo Bagnoli. Noi siamo un'azienda che ha come concorrenti le multinazionali, le più grandi multinazionali estere nel campo alimentare. Replica Sistemi ci aiuta a competere nei nostri mercati e ci ha permesso di fare dei sviluppi importanti in ogni settore aziendale. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Avvicinatevi, non posso alzare la voce altrimenti se ne accorgono. Le nostre Land Rover non sono abituate a sentir parlare di tranquillità perché pensano sempre solo ad avventure e a superare ostacoli, a portarvi ovunque. Shh, eccoli che arrivano. Con Land Rover Jump Plus hai tutta la tranquillità del valore futuro garantito più alto di sempre. Range Rover Evoque da €350 al mese, TAN fisso 2,95, TAIG 3,49. Salvo approvazione della banca fino al 31 luglio. Messaggio pubblicitario, info e note legali in concessionaria. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio. Per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni. E che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavorodigitale. Ready? Giovanni, 36 anni, industrial designer. Tra una casa bella fuori o fresca dentro? Io ho scelto Unico, il climatizzatore senza unità esterna. Perché non rinuncio allo spazio sul terrazzo per i miei aperitivi con gli amici. E dentro, con le sue linee originali, Unico è perfetto per la mia casa, dove forme, colori e materiali parlano di me. Unico, il climatizzatore senza unità esterna di Olympia Splendid. Tecnologia, design e made in Italy. Per una casa bella fuori e fresca dentro. Prodotto contenente gas fluorurato GVP2088. Tutti convocati. Allora, siamo nell'intervallo a San Siro di un Milan-Roma fin qui non indimenticabile. 0-0 il parziale, lo avete sentito nel GR dal nostro Dario Ricci che ritrovo. Ciao Dario. Eccoci. C'è con me Carlo Genta, 800-24-0024, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, 349-238-6666, comunicazione di servizio per Edoardo Lavezzari. Adesso carichiamo gli ascoltatori. Allora, io direi, Carlo, che andiamo a San Siro, credo ci sia anche un ospite, sì, con Dario, no? Dario? Sì, dovrebbe averci raggiunto Enrico Currò, inviato della Repubblica. Ciao Enrico. Ciao, eccomi. Allora, ho detto non indimenticabile, no, questo primo tempo. Indimenticabilissimo. Secondo me i casi sono due. Diciamo così, le partite sono così, le cosiddette partite tattiche sono così anche quando c'è il pubblico, magari ce ne accorgiamo un po' meno, facciamo meno caso perché c'è il pubblico e magari fa anche un po' meno caldo, oppure si iniziano a vedere in questa partita gli effetti e del caldo e delle partite ravvicinate, perché il ritmo è veramente molto basso. Dario? Dario, scusate, sì, è stata un'interferenza. Beh, sicuramente devo dire, però c'è stata grande attenzione tattica, perché sono due squadre speculari e quindi molto dense nel loro 4-2-3-1, tant'è che i primi 20 minuti di fatto si sono annullate, ma non sono mancate le schermaglie tattiche. Abbiamo visto appunto un Conte più propositivo sulla destra, perché la Roma si copre bene a sinistra per non lasciare spazio a Hernandez, così come un Dzeko chiaramente abituato a dettare i tempi della squadra, facendo di fatto regista d'attacco, cosa che poi magari, visto il momento, le situazioni e la preparazione approssimativa, poi gli fa perdere lucidità sotto porta, e il gol che ha sbagliato al ventesimo di testa da pochi metri, da 4 metri dalla porta di Donnarumma, è parente stretto di quello fallito di Gagliardini. Anche Çalhanoğlu ci ha messo del suo, sì, con un altro colpo di testa da quasi da 0 metri, no Carlo? Sì, ma ragazzi, sembra una partita al VAR, Giovanni, sì, cioè, veramente alla Moviola, ma alla Moviola vanno pianissimo. Ora, Enrico ha detto bene, può essere figlio della condizione fisica approssimativa unita alle partite ravvicinate, unita al caldo, unita al fatto anche che, insomma, le motivazioni sono in fondo residuali, perché la Roma rincorre l'Atalanta con poche possibilità di prendere, almeno a rincorrere l'Europa League, che non è esattamente la finale di Champions. Metti insieme tutto questo e ne esce una partita come questa, in cui sembra un gran premio di Formula 1, dopo la partenza facciamo fatica a star svegli. E però Enrico, insomma, residuali o no, io credo che la Roma l'idea di poter magari immaginare di provare a prendersi l'Atalanta la debba coltivare in questo momento. Non dimentichiamoci che tra una decina di giorni l'Atalanta va a Torino con la Juve, per intenderci. Sì, ma ci sono ancora tante partite, quindi dal punto di vista aritmetico sarebbe assurdo che, cioè, normalmente mancherebbero due mesi alla fine del campionato con un numero così alto di partite, forse anche di più, correggete, due mesi e mezzo. Cioè, sì, non è così, 10 partite te le giochi in due mesi e mezzo, qui chiudi tutto entro il 2 agosto, manca un mese. Quindi diciamo che le partite ravvicinate indubbiamente condizionano. A me pare che l'elemento un po' nuovo di questo campionato strano, di questo campionato estivo, sia proprio la difficoltà dei difensori, non tanto in questa partita, dove mi sembrano per ora piuttosto visti, anche se si sono distratti sui due gol mancati di testa, ma io noto proprio un ritardo clamoroso nell'andare a chiudere in generale in fase difensiva, tant'è che un giocatore come Mkhitaryan, che è un giocatore che insomma è di tecnica molto alta, ma non è certamente un fulmine. Però in una partita come questa, quando vuole, pianta anche ogni tanto qualche accelerazione, quindi evidentemente sono partite un po' diverse dal normale, e adesso è passato un numero sufficiente di gare per poter dire che non si tratta soltanto di un momento o di un rodaggio, è proprio così, è questo mini campionato estivo che è strano. Sì, non è Mkhitaryan, no Carlo, che scatta, sono gli altri che vanno più piano. Ma... Sì, vanno tutti molto piano, però questo è un dato interessante, cioè stiamo vedendo comunque tanti errori da parte degli attaccanti, prima dicevamo di Dzeko, di Gagliardini eccetera eccetera, ma abbiamo visto tanti errori anche di giocatori al di sopra di ogni sospetto, ma vediamo anche tanti errori difensivi che normalmente sono da matita blu. Non dimentico i gol ad esempio presi dall'Inter a Napoli in contropiede sul rinvio del portiere, l'ultimo gol preso dall'Inter in contropiede, ragazzi, con anche Lucioni venerdì, insomma, sera vediamo, si è suicidato Lucioni da solo. Venerdì, come no, come, ma vediamo, vediamo un sacco di errori, stiamo vedendo veramente tantissimi errori che per questo livello e per giocatori di questo livello sono curiosi, quindi il dato è certamente interessante. Dario Enrico, io però vi dico che mi aspetto un secondo tempo diverso, perché la motivazione per tutte le due è che il pareggio non serve a niente, non serve neanche al Milan, e quindi magari inconsciamente, visto il gran caldo, visto la fatica, visto tutto quello che abbiamo detto, hanno quasi scelto di tagliare in due la partita, di giocarsela su 45 minuti, non lo so, Dario. Direi che può starci, dobbiamo anche imparare a leggere queste partite in tanti segmenti diversi, sia per le condizioni che abbiamo detto, sia per le cinque sostituzioni. E questa è comunque una partita che poi effettivamente fosse entrata una delle tre occasioni che ci sono state nel primo tempo, chiaramente l'avrebbe un po' aperta, no? E l'ha visto mai che magari nella parte finale non possa andare proprio come ipotizzi di Giovanni. Anche perché se si allungano, no Enrico, poi dopo noi stiamo vedendo tanti gol, ieri ne abbiamo visti, stavo facendo prima il conto, 17 credo in 4 partite. Sì, avete detto bene, io credo che un episodio fosse stato uno dei due colpi di testa, già staremmo parlando probabilmente di un'altra partita, può portare poi a cambiamenti tattici, a squadre che si scoprono e si allungano. Avete anche detto, mi pare Dario, che le cinque sostituzioni possono sicuramente essere importanti. Abbiamo già visto che gli allenatori a poco stanno usando anche questa come una risorsa, mentre mi sembra che nelle prime partite non fosse così. È un elemento in più da valutare di questo, ripeto, campionato molto, molto strano. Sì, molto strano. Grazie Enrico. Ciao. Grazie Enrico Currò da San Siro nell'intervallo di Milan-Roma. Dario Ricci resta lì perché ci racconterà anche il secondo tempo. 800-24-0024. Luca, dalla provincia di Torino. Buonasera a tutti. Buonasera. Sulla Juve... Io rimango sempre della mia idea che insomma è stata costruita una squadra che non è assolutamente adatta all'allenatore che ha preso la Juve, quindi credo che siano più le colpe della società che le colpe di Sarri, e mi viene da dire che insomma l'ammissione di colpa è quello che sta succedendo già sul mercato da parte della Juve, cioè il fatto di prendere gente come Kulusevski e lo stesso Arthur è un po' il fatto di dire, beh, effettivamente qualcosa abbiamo sbagliato, e soprattutto a centrocampo abbiamo dato a Sarri insomma una cosa che non è propriamente nelle sue corde. Anche se Arthur non mi sembra un giocatore fatto per il calcio di Sarri, a me sembra più un'opportunità di mercato, però prego Carlo. Ma no, il discorso è che insomma ci sono allenatori che con quello che gli dai riescono comunque a fare bene, ci sono allenatori che hanno bisogno che tutti i tasselli vadano al loro posto. Io più che altro non continuo a non capire bene ancora se Sarri sia adatto alla Juventus, secondo me il problema è a monte, poi se Arthur che Kulusevski sono due eccellenti colpi, non vediamo come va a finire questa stagione. fino adesso il giudizio su Sarri è sospeso, ma non è esattamente positivo. Quindi, siamo al 6 meno, siamo al 6 meno, fino a questo momento giudizio su Sarri. Allora, noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi ci raggiunge Cesare Prandelli, seguiremo insieme anche il secondo tempo di Milan-Roma, che sono a riposo sullo 0-0. E vi annuncio già che alla fine, negli ultimi minuti di questa trasmissione, vi raccontiamo una bella storia di pallavolo e di amore per la propria squadra che viene da Modena. E quindi proveremo, insomma, a raccontarvi che cosa stanno facendo i tifosi del Modena. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Queste due vittorie sono state importanti, è andato subito consapevolezza alla squadra, anche nel modo in cui sono maturate, e ha chiaro quello che è l'obiettivo ed è concentrata per poterlo raggiungere. Allora, questo Gasperini ieri, la vigilia di Udinese-Atalanta. Ricordiamo che le 19.30 sono quattro le partite. Abbiamo parlato prima di Parma-Inter, che si gioca alle 21.45. Alle 19.30 c'è Udinese-Atalanta, poi Napoli-Spal, Sassuolo-Verona e Sampdoria-Bologna. Quindi ci sono in palio punti importanti per la zona Champions League, per la corsa alla zona Europa League e anche per la salvezza, perché in ogni caso ieri abbiamo visto il Genoa fare un passettino avanti pareggiando a Brescia. In questo momento in Serie B andrebbero Lecce, Spal e Brescia, ma la verità è che anche la Sampdoria non si può tirare fuori, tantomeno l'Udinese a 28. Il Toro ha davanti un calendario da incubo, perché in tre delle prossime quattro giornate gioca contro Juventus, Lazio e Inter. E ieri ha fatto una brutta partita a Cagliari, carissimo Carlo, al di là del fatto che a un certo punto in qualche modo l'avesse riaperta. Saluto Cesare Prandelli, ciao Cesare, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, ciao, mister. Grazie. Ti sta piacendo questo calcio post ripresa? Insomma, uno sport senza pubblico non entusiasma più di tanto, però era giusto ricominciare, era giusto dare la possibilità a tutti i tifosi per 90 minuti di comunque chiudere gli occhi e sognare, ma non è un calcio piacevole, no, ecco, però il calcio è magico, quindi automaticamente trovi anche degli spunti interessanti. Ma secondo te quanto sono lontane le squadre mediamente da una condizione, io non dico perfetta, ma comunque più che sufficiente? Ma diciamo che analizzando poi i dati nel dettaglio, in certi momenti le intensità sono anche buone. Il problema è cercare di capire durante la gara cosa poter fare per mantenere questa intensità. E i cinque cambi, secondo me, se sfruttati bene, ti possono dare la possibilità di dare qualcosa in più. In questo momento la condizione è 70%, 60-70%. Non dico. Sì, mi verrebbe da chiedere, Carlo, no, cosa significa sfruttare bene i cinque cambi, perché abbiamo visto chi ha provato all'inizio a metterli in fondo, no? Carlo. Mi sembra, Cesare, volevo appunto sui cinque cambi. Mi sembra che gli allenatori stiano ancora sperimentando, cioè hanno fatto anche dei pasticci, degli errori nella gestione dei cinque cambi, quindi stiamo ancora provando a capire come funziona la storia. E poi ne parlavamo anche prima, stiamo notando tanti errori individuali da parte dei giocatori al di sopra di ogni sospetto, sia attaccanti, difensori, centrocampisti, insomma stiamo vedendo tanti errori individuali, non so se è un caso o un trend. No, non è un caso, quando stai fermo tre mesi non è che in automatico trovi i tempi, trovi la precisione, la sensibilità, hai bisogno di tempo. Chiaro che i giocatori di classe, i giocatori che hanno magari la capacità di intuire prima degli altri, possono anche commettere meno errori, però ci sono molti, molti errori. Anche perché in tutte le partite ci sono dei momenti dove c'è molta foga, non c'è intensità ma c'è foga, non c'è una grande organizzazione, quindi automaticamente ti porta anche all'errore. Sta anche un po' saltando il fattore campo, non siamo ai livelli della Bundesliga. Però nelle prime 18 partite giocate, quindi teniamo fuori quello che abbiamo visto in questo primo tempo di Milan-Roma, le vittorie in casa sono state la metà, 9, il 50%, 5 volte invece il fattore campo è saltato. Può essere un tema, Cesare? Ma certo che è un tema, è chiaro che tutte le squadre soprattutto le squadre meno, con meno personalità, diciamo, con meno sicurezza, quando in fondo le grandi squadre già nel momento che arrivi allo stadio ti mettono un po' di condizione. I tifosi aiutano, questo è un dato assodato. Nel momento che ti trovi in uno stadio vuoto, senti le voci del tuo allenatore, se c'è una buona concentrazione puoi usare anche molto di più, e quindi i giocatori anche con meno personalità possono rischiare qualcosa di più. Ti giro un messaggio che è arrivato via WhatsApp. Beh, perché anche i portieri soffrono di pesanti cali di concentrazione, pure dovrebbero essere i primi a entrare in forma, chiede un amico. Perché è una componente, la concentrazione, cioè non è che arrivi in automatico. Poi tante volte chi arriva al campo che ha, magari non ha una grande concentrazione, sono gli stessi tifosi che ti aiutano a ritrovare immediatamente nel riscaldamento, e quindi ti ritrovi in un contesto dove sei abituato a lavorare e quindi automaticamente la trovi. Così è un lavoro difficile, complicato, non c'è uno storico dove possiamo dire ok, è successo e abbiamo lavorato in questo modo qua, e quindi sì, bisogna sì. Lavorare anche da questo punto di vista durante la settimana, durante gli allenamenti, e abituarsi a questo aspetto. Mi ha incuriosito una cosa che ha detto ieri sera Zenga, cioè anche gli allenatori devono stare molto più svegli in panchina, perché si trovano di fronte a partite che cambiano in un secondo e devono essere molto reattivi ad adeguarsi ad una partita che, a differenza del solito, magari sono solo suggestioni, però ti campi improvvisamente davanti agli occhi, e sia coi cambi, con i giocatori che cambiano improvvisamente di condizione, con gli avversari che magari trovano gol nel nulla. Insomma, sono partite che hanno diversi cambiamenti, anche forse un diverso modo di allenare, Cesare. No, è assolutamente vero. Gli allenatori in questo momento sono determinanti, sono fondamentali, e quindi durante gli allenamenti i giocatori si devono abituare a dei comandi secchi, precisi, e sì, l'allenatore sì. deve essere veloce a anticipare anche il cambio tante volte, non aspettare. E quindi le squadre stanno sperimentando qualcosa che non era mai successo. Dovete stare più attenti anche a quello che dite in panchina, perché c'è una collezione di cartellini gialli e rossi in queste prime due giornate e mezzo, per gli allenatori intendo. Sì, per allenatori, giocatori, tutti, ma cioè, le parolacce sono sempre state nel calcio. È solo che adesso si sentono, ecco, quello che stai dicendo, ci vuole una grande preparazione anche da questo punto di vista. Però sai, la parolaccia ci può stare, è il fatto di magari vedere un cambio dopo 5 minuti che non ci sta, ecco, di avere una massima concentrazione. Sì, allora andiamo qualche istante a San Siro al nostro Dario Ricci per Milan-Roma. Dario. Il 49esimo di gioco, ancora 0-0, qualche istante fa un retropassaggio pericoloso di Spinazzola che mette in difficoltà Mirante, che già nel primo tempo si era trovato a dribblare su una situazione simile provocata da Mancini, Rebic. Questa volta il croato alla meglio, riesce ad anticipare il portiere giallorosso, ma non poi a deviare verso la porta trascinandosi il pallone sul fondo. Finora nessuna sostituzione ancora, e il risultato ancora sullo 0-0. E quindi questo da San Siro. Siamo con Cesare Prandelli. Allora, al di là di Ribéry, io l'ho detto prima, con o senza Ribéry la Fiorentina sono due squadre diverse. Io devo dire la verità, Cesare, ieri sera che bella partita ha fatto Castrovilli, che bravo. Castrovilli ha una qualità che nessun centrocampista italiano ha. È una qualità che riesce a puntare, a brillare in mezzo al campo come se fosse un tornante, ma è un centrocampista. Quindi è una qualità diversa da tutti gli altri centrocampisti, e potrebbe essere veramente una grande risorsa per ma che cos'è un 10, un 8? No, non ha un numero particolare, ha questa capacità in qualsiasi zona del campo, che lui ha una grande proprietà di palleggio e ha questa accelerazione palla a piede, e può essere devastante in certi momenti. È chiaro che secondo me deve trovare, non dico un ruolo ben preciso, ma meno va sugli esterni negli OR, che con queste accelerazioni centrali può veramente scardinare tutti i giocatori che ci sono davanti, perché io ho visto pochi giocatori e riuscire a contrastare quando parte nei 5-6. Sì, Carlo, dicevi? No, dicevo, la Fiorentina è una squadra estremamente interessante, però stavo, mentre Cesare parlava, stavo pensando a un altro suo grande vecchio amore, cioè l'Atalanta. Se non se avesse 4-5 punti in più in questo momento, staremmo probabilmente parlando di una squadra che può attentare a Fort Knox, allo scudetto. Allo scudetto, addirittura. Ma quando parli di Atalanta io chiudo gli occhi e penso alle Champions. Io penso che partita secca siamo veramente... sognare qualcosa di impensabile fino a qualche minuto fa, ecco. Perché l'Atalanta pare che può vincere contro qualsiasi squadra al mondo, ma anche il Napoli, adesso dopo la pausa andremo in Spagna dal nostro Filippo Maria Ricci per parlare del Barcellona. No, Cesare, sì, Napoli ha fatto dei miglioramenti straordinari, ha ritrovato non solo concretezza ma anche fiducia, il gruppo si è ricompattato, è stato bravissimo Mourinho a cercare di togliere un po' di responsabilità, ma al tempo stesso di creare uno spirito di squadra vero, come è sempre stato in questi ultimi anni. Quindi si sono ritrovati e potrebbe essere veramente anche lì una partita. Le partite secche vanno giocate sempre con grande... Anche se parte dall'1-1 a San Paolo, quindi diciamo è una partita mezza secca rispetto a quelle dell'Atalanta. Però, assolutamente. E poi diciamo la verità... Cesar ne sa qualcosa, partite secche, arrivato in finale a un europeo, non dimentichiamolo. Sa benissimo di cosa sta parlando. Esatto. Anche perché se ti convinci che l'altro è attaccabile, no Cesare... Cioè io sono sicuro, per carità, oggi il Napoli gioca con la Spal, ieri sarà stati tutti assolutamente concentrati a preparare questa partita, ma insomma io sono convinto che un occhio lo buttano, e al di là delle parole, insomma il Napoli da questo campionato ha veramente pochissimo da chiedere. Sa già che sarà in Europa League perché ha vinto la Coppa Italia, a scarico di pressioni, è lontanissimo dall'Atalanta. E io capisco però, le parole di Rino, però... No, ma guarda, da allenatore ti posso dire che la squadra deve essere concentrata partita per partita, che non puoi pensare a una partita che si giocherà fra un mese e mezzo e mentalmente ti prepari a quella gara, assolutamente no. E la preparazione è domenica dopo domenica, cercare di lavorare in un certo modo, di essere consapevoli che sono una grande squadra e lì si stanno preparando. Non puoi pensare di speculare, non so come... spiegare. Devi immaginare questo mese di campionato come una lunga preparazione. Come una lunga preparazione, ma ogni partita è come se giocassero contro Barcellona. Allora nel momento che tu arrivi sei pronto, sei preparato. Sei pronto mentalmente. Grazie Cesare Prandelli. Grazie, ciao, a voi, Cesare, grazie. Come sempre, un abbraccio. Ciao, grazie. Alla prossima. Siamo intorno all'ottavo minuto del secondo tempo a San Siro tra Milan e Roma, e ancora 0-0 il parziale. Ci fermiamo un minuto. Torniamo poi a San Siro e andiamo in Spagna per raccontare tante cose anche legate al calciomercato, perché abbiamo detto oggi è stata la domenica delle visite incrociate Artur e Pjanic, questo scambio tra Barcellona e Juventus, e domani potrebbe essere il giorno invece in cui sbarca Hakimi. È vero che ha giocato negli ultimi due anni nel Borussia Dortmund, ma di fatto l'Inter lo compra dal Real Madrid. Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Quest'anno andiamo, inizia a settembre, quindi... Pjanic, siamo sicuri che fino a fine agosto sarà con noi, io spero rimanga anche dopo, ma queste poi sono decisioni, staremo a vedere in fase successiva. Penso il ragazzo non abbia nessun tipo di ripercussione, è un professionista, è un ragazzo molto, molto intelligente, è un ragazzo che parlandoci insieme è uno che capisce molto velocemente le situazioni e che si sa adeguare, quindi non so niente al momento, ma anche se fossi non ho grandi preoccupazioni, anzi non ho nessuna preoccupazione della situazione. Questo Sarri che parlava di Pjanic, nelle prossime ore immagino gli diranno tutto ufficialmente, cioè che lo scambio Pjanic-Artur è confezionato. Saluto Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Allora, è caduta la linea con la Spagna, adesso la ripristiniamo. Carlo, io direi però che andiamo prima a San Siro, perché come previsto si sta un po' aprendo Milan-Roma. Dario, Ricci. Sì, 59esimo di gioco, risultato ancora di 0-0, ma in questo primo scorcio di ripresa direi meglio il Milan. La Roma sembra avere il fiato grosso, tant'è che pochi istanti fa, prima sostituzione ordinata da Fonseca, uscito Kluivert al suo posto Perez. In precedenza però era stato il Milan a operare contemporaneamente due sostituzioni, fuori Bonaventura e Castileco, dentro Paquetà e Stelemakers. Il belga in particolare ha portato una certa effervescenza, permettendo ai rossoneri di conquistare i loro primi due calci d'angolo della partita. Insomma, occasioni vere e proprie, Giovanni Carlo, non ce ne sono state, ma in questo primo scorcio direi meglio, più quadrato e anche con più di fiato il Milan. Sì, ma mi sembra anche che si stiano un po' allungando in campo, Carlo, che impressione hai tu? Sì, si stanno un po' allungando in campo, però il Milan rimane sempre il solito refrain, no? Cioè è una squadra che non ti dà mai l'impressione di far male, di essere pericolosa, di mettere in apprensione l'avversario, cioè siamo sempre a fare lo stesso discorso, no? No Ibra, no party. Quando giochi partite così, un conto è avere davanti uno che è in grado di creare qualcosa da solo, e un conto è essere comunque una squadra, vabbè, Rebic molto bravo, Castiglieco fa il suo, però Milan non è una squadra che ti fa paura quando attacca. Sì, Ibra che ci dovrebbe essere, sia con la Lazio che con la Juventus, perché nell'arco di tre giorni il Milan le incrocia tutte e due, le pretendenti allo scudetto. Allora, abbiamo recuperato Filippo Maria Ricci. Filippo, ciao. Ciao, ora mi sentite, ciao, no? Adesso ti sentiamo correttamente. Sì. Allora, lo abbiamo detto già dall'inizio, insomma, questa è stata, oramai parliamo al passato, la domenica delle visite mediche incrociate, che se in realtà le hanno fatte tutte e due a Torino, di Arthur con la Juventus e Pjanic con il Barcellona. Immagino, Filippo, nelle prossime ore, insomma, arrivino tutte le ufficialità del caso. Sì, noi l'abbiamo sempre detto qua, no? Era un matrimonio che si doveva fare ed è stato fatto. Matrimonio di interesse. Esatto, sì, però anche tecnicamente interessante, comunque, di interesse economico e tecnico. Non è che la Juventus ha preso uno qualsiasi, ha preso comunque un titolare del Brasile che ha vinto la Coppa America, ha vinto la Coppa Libertadores, ha vinto la Liga, ha 23 anni ed è un ottimo giocatore. Lasciamo stare le cifre, no, che poi girano, che poi possono essere, servono più ai bilanci che altro, però la Juventus per me fa un ottimo acquisto. Ma chi ci fa l'affare tra Juve e Barcellona? Per me la Juve. Per me la Juve. Cioè questo è un giocatore vero. Anche perché la sensazione è che il connubio Pjanic-Juventus fosse arrivato davvero ai minimi termini, cioè quella non tanto per Sarri, cioè probabilmente si è esaurita la spinta di Pjanic alla Juventus. Arthur è un giocatore, cavolo, è un grande giocatore, c'era bisogno di farlo questo affare per tante ragioni, però non è che dici hanno preso, si sono dovuti accontentare, hanno fatto lo scambio prendendo un giocatore qualsiasi, insomma hanno preso un titolare del Brasile che ha vinto la Coppa America l'anno scorso. Sì, intanto Barcellona si sta un po' buttando via, no? Ma sì, appunto, Filippo. Perché uno dice, però quest'anno Arthur nel Barcellona ha fatto bene. È vero, ha avuto la pubalgia, insomma, ci ha avuto dei problemi, però questo è un Barça assolutamente sfasato, disorientato, è difficile far bene, cioè stanno facendo male più o meno quasi tutti. Per cui, insomma, non è giusto tarare Arthur su questa stagione del Barça. È giusto tararlo sulla quella passata, nella quale comunque hanno vinto la Liga, e comunque quando lui è arrivato, dico, io ne ho visti tanti passare qui, è il primo che ho visto che dico, assomiglia a Iniesta, però, insomma, attenzione con le parole, Phil. No, è arrivato a 21 anni, è arrivato dal sì, Brasile, sì. E si è subito inserito in maniera intelligente, in maniera anche molto positiva. Poi ti dico, non t'ho detto, ne sono passati veramente milioni, cioè Thiago, Rafinha, adesso non mi vengono in mente, però che gente che poi alla fine ha fatto un'altra carriera. Per cui, insomma, per me per la Juve è un giocatore anche per con il gioco di personalità. Sarri. Sì, un giocatore con grande personalità, questo. Quindi questo è certamente una cosa a sottolineare. Ma piuttosto stavo riflettendo sul fatto, Barcellona si stava buttando via, il Real Madrid non mi sembra brillantissimo. Un dato politico di questo strano periodo sta nel fatto che tutte le grandi coronate d'Europa che saranno in lizza per la Champions fanno una fatica pazzesca forse ad eccezione del solito Bayern Monaco, ma tutte le grandi in Europa stanno vivendo non un bellissimo momento, e quindi Atalanta sogna, Napoli sogna, bla bla bla. Giusto, ma cioè, ricordati che Liverpool è uscito, forse la più grande, sì, di tutte, certo. Campione d'Inghilterra, certo, con 100 certo punti di vantaggio, campione d'Europa, è già uscito con un Atletico che è una squadra molto molto strana, perché comunque l'Atletico, sì, adesso sta andando avanti, si è consolidato al terzo posto, è rientrato bene, però non è che brilla, cioè sempre il gioco è quello che è, latita, vincono più o meno 1-0, ieri gli hanno regalato un rigore, ha finito 2-0, però ecco, cioè, Liverpool non c'è più, il City lo vedremo, e questa è una Champions per chi se la va a prendere, insomma, no? Sicuramente l'unica squadra veramente in forma è il Bayern Monaco, però sì, anche che lì, però da ieri è in vacanza, eh? Appunto, esatto, si rigioca tra un mese e mezzo quasi, no? Sì, sì, un mese un po' e di mezzo, meno, un mese 40 e mezzo giorni, via, no? Sì, esatto. Bayern di per fatto cui, è già agli ottavi di finale, perché deve, esatto, solo chiudere 12, la pratica, 13, no? Esatto, per cui insomma è una situazione molto molto, lo stiamo, per me la cosa più assurda, se vogliamo, di questo scambio è che uno scambio che viene fatto oggi con due giocatori che giocheranno ancora per un mese e mezzo con le loro squadre, rischiano di incrociarsi, insomma, stiamo vivendo un momento molto molto strano a livello anche... Il matrimonio di interesse FIL andava consumato entro il 30 giugno, certo. Altrimenti non sarebbe più stato matrimonio di interesse, ma sarebbero probabilmente entrate altre logiche e altre dinamiche. A proposito di matrimoni, dovrebbe celebrarsi entro le prossime 48 ore quello dell'Inter con Hakimi, che di fatto è del Real Madrid, perché è il Real che lo vende all'Inter. E la domanda che tanti si fanno, qualcuno maliziosamente se non è tifoso dell'Inter e qualcuno quasi sorprendendosi se è tifoso dell'Inter, è perché il Real Madrid vende un giocatore che sembra essere un prospetto a livello mondiale tra i più interessanti. Sono tre giorni che lo dico. Voglio dire, tu c'hai 35 giocatori, questo è quello che c'ha il Real Madrid, 25 possono essere iscritti, magari ne vuoi anche comprare qualcuno, non se ne vuole andare via nessuno, perché no, ci sono i vari Mariano, Brahimi, Isco, Bale, nessuno vuole andare via. Qua ti arriva un'offerta da 40-45 milioni per quello che comunque è una riserva, perché tu non lo puoi far giocare, perché c'è Carvajal, col quale hai vinto, che è il titolare. È titolare, un bel numero di Champions, ha 28 anni, e vuol dire, perché lo devi cambiare? È super affidabile, quindi è un surplus. Bisogna fare, diciamo, i complimenti al Madrid, perché c'ha un surplus come Hakimi, perché l'ha visto giovane, se l'è preso giovane, gratis, una plusvalenza enorme, 45 milioni per uno che con te non può giocare, che fai? Non lo vendi? Lo vendi, poi ti sbagli, diventerà il nuovo Cafu, vabbè, però tu comunque hai avuto Carvajal e ci hai vinto delle Champions, insomma, non è che è andato male, cioè, capito? E poi comunque bisogna sempre vedere i giocatori, perché io dico sempre, cito sempre Theo Hernandez in Spagna non ha fatto bene, ha avuto tante occasioni per far bene, ognuno poi fa bene dove in certe situazioni, non è universale. E quindi Hakimi in questo momento, se ti è, a Florentino Perez, però grande colpo dell'Inter, grandissimo colpo dell'Inter, non sto sminuendo questo, però dico, il Real Madrid comunque è una società che ha anche bisogno di soldi, hanno, sì, perso un sacco di soldi con il coronavirus, come tutti anche in Spagna, 45 in Spagna. Milioni sono tanti per uno che comunque tu non sai dove mettere, perché di questo si tratta. Se gli danno 45 milioni per Carvajal, probabilmente lo vende e si tiene Hakimi, però non è arrivata l'offerta, è arrivata questa offerta qua, e per l'Inter è un colpo eccezionale, diciamo che è stato molto gioco, bravo Marotta a capire che poteva inserirsi dentro questa situazione che Filippo Maria Ricci ci ha perfettamente raccontato. Grazie Phil. A voi, ciao. Grazie ciao. Filippo, allora rapidamente San Siro al nostro Dario Ricci. 67° di gioco, calcio d'angolo per il Milan, respinge la difesa della Roma, risultato ancora di 0-0, ma in questi ultimi minuti due buonissime occasioni per i rossoneri. Al 66° triangolazione Çalhanoğlu-Selemakers, Çalhanoğlu il diagonale da distanza ravvicinata è deviata da Mirante in angolo, stesso destino per un altro diagonale, stavolta di destro dal limite dell'area di Paquetá, anche in questo caso bravo il portiere giallorosso. 68° di gioco, 0-0 tra Milan e Roma San Siro. Sì, decisamente meglio il Milan in questo secondo tempo, e partita che come prevedibile è cambiata. Stefano dalla provincia di Perugia, Stefano. Sì, buonasera. Buonasera. Io ascolto sempre la vostra trasmissione, ma oggi l'ascoltando sono rimasto un po' deluso, perché avete dato delle considerazioni sulla partita Lazio-Fiorentina che, a parte che sono forse di parte, perché sono un tifoso fiorentino, ma come si fa a dire un rigore che si poteva dare e non dare? Ma io penso che chi ha giocato a pallone e che sa un pochino, a volte voi altri vedete altre partite, mi sembra che commentate. Poi, però Stefano, ripeto, perdonami, siccome il punto di partenza era, perché se ne lamentano molti tifosi della Fiorentina e anche della Juventus, ovviamente per interessi di classifica, è stato dato un rigore su una simulazione. Ora, noi siamo partiti da questo dicendo, mettiamo due cose in chiaro. La prima, Caicedo comincia a trascinare il piede in anticipo, e questo è innegabile. La seconda, Drongoski lo prende e non è un contatto leggero. Da qui nasce la nostra valutazione. Però prego, Stefano. No, io penso che lui cadeva appena fatto lo stop, perché non controllava più il pallone. Era andato per terra. Poi ma allora Drongoski ha sbagliato a uscire così, perché è uscito con foga. Ma sì, d'accordo, però volevo dire, quello non è un rigore squadrale, la partita è cambiata, la Fiorentina meritava di vincere assolutamente, ma al massimo pareggiare, ma pareggiare perché va a fare un gol, non perché bisogna regalargli un rigore. Dopo i tifosi si arrabbiano di queste cose, di queste contestazioni, è normale che poi non ci sia, bisogna essere un pochino più obiettivi. Ha sbagliato, chiuso, ha sbagliato. Io voglio sapere cosa direbbe adesso il presidente Lotito, che ha tanto arrabbiato con la partita, sì, che evoca comunque spesso il punto ragione, abbiamo Stefano, detto prima, insomma, è un episodio che tutti quanti in Italia, compresi i moviolisti eccetera, hanno letto in modo differente, quindi oggetto del contendere c'è. Magari non è un rigore doloso, è preterintenzionale, per usare il linguaggio legislativo, perché è uscito in maniera scomposta il portiere della Fiorentina. Detto questo, secondo me, e l'ha sottolineato prima perfettamente Luca Marelli, gli episodi più importanti e più significativi sono gli altri, riguardo i provvedimenti disciplinari che sono stati gestiti, sì, dove Fabbri ha sbagliato tutto e la Fiorentina, esatto, è stata pesantemente, esatto, danneggiata negli ultimi 25 minuti ieri della partita di Roma con la Lazio. Grazie Stefano. Allora, ancora 0-0 Milan-Roma, è uscito Dzeko, adesso torniamo a San Siro, prima c'è il traffico. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo nell'ultimo tratto di questa puntata di Tutti Convocati Weekend, carissimo Carlo, 0-0 ancora Milan-Roma, tra un istante andiamo a San Siro, saluto Katia Pedrini, presidentessa del Modena Volley. Katia, presidentessa, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la storia che vi vogliamo raccontare è questa, ed è meravigliosa. Praticamente Modena ha detto ai suoi tifosi: apriamo la campagna abbonamenti per la prossima stagione, non sappiamo se, come, dove giocheremo, nemmeno eventualmente se potremo darvi un rimborso nel caso ci siano problemi, però abbonatevi. E quanti hanno risposto? Adesso io l'ho un po' banalizzata, presidentessa, ma quanti hanno risposto? Allora, hanno risposto per adesso in più di un migliaio. In realtà la nostra è stata una chiamata alle armi in una terra che ha il DNA, ha nel DNA la pallavolo, quindi sapevamo che ci sarebbe stata una risposta. In realtà noi volevamo anche cercare di attirare l'interesse su quello che è il mondo dello sport, calcio a parte, no? Che ha una vita sua, che non che è in ginocchio per quanto è accaduto, per quanto sta accadendo, e rischia il colpo di grazia, nel senso che sono decine e decine le società che hanno già dovuto rinunciare a proseguire la propria attività, oppure come noi ridimensionando drasticamente il budget, con robusti danni a cascata sulle attività, sul futuro dei ragazzi, ma anche sull'erario, che così da questo settore dei soldi non ne prende. Venerdì ci siamo occupati del credito d'imposta con i presidenti delle leghe basket. Esattamente quello dell'emendamento 216.32 che è adesso in esame presso la Commissione di Bilancio della Camera, avrebbe il vantaggio di autoripagarsi e di salvare sport, Movimento Olimpico Italiano, il futuro di migliaia di atleti e altrettanti posti di lavoro, quindi sì, non c'è una ragione per cui non si proceda. Ma allora guardi, io credo perché... che se non cogliamo questa occasione del Covid per come dire creare un circolo virtuoso, quindi riforma fiscale, bastonare duro a chi evade, ma chi ha diritto e chi è virtuoso è giusto che venga aiutato, perché senza sport, senza musica, cioè, non abbiamo futuro, dove andiamo, cioè non... È una sofferenza cercare di restare vivi, ma bisogna restare vivi anche con delle prospettive positive. Nella mia realtà Modena Volley è un'impresa sociale, queste migliaia di persone che si abbonano e che si abboneranno, perché andrà avanti questa cosa nonostante le difficoltà delle persone, è perché il volley a loro regala gioia, passione, entusiasmo, aggregazione. Perché comunque presidentessa, caro, cioè è un atto d'amore, al di là dei tecnicismi di quello che ci ha spiegato la presidentessa, e ripeto, venerdì ce ne siamo lungamente, no? Occupati, perché esiste un mondo al di sotto, o meglio al di fuori del calcio. Questo è un atto d'amore. Questo è certamente un atto d'amore, e in questo momento i club di pallavolo, di basket, di pallanuoto, possono di rugby, possono appellarsi giusto all'amore dei loro tifosi, non hanno molto altro. Credo che il momento sia veramente decisivo per la sopravvivenza di tutti questi sport, che sono di un'importanza fondamentale per il nostro movimento, no? Ti ricorderai anche tu, Giovanni, l'altro giorno, quando parlando con Sandro Campagna, a me è rimasto impresso, ha detto: il movimento, l'impostazione dello sport dilettantistico di alto livello, che fa circolare molti soldi, gli atleti guadagnano moltissimi soldi, diceva, questo sistema è al collasso, non può sopravvivere, perché comunque giocatori di pallavolo, di basket, di quel livello lì guadagnano moltissimi soldi. Io credo che non vedremo più quello che abbiamo visto fin qui in questi sport, a meno che non ci sia una riforma strutturale profonda. E seguiremo questo tema. Grazie presidentessa. Grazie a voi, grazie mille, complimenti per la vostra emittente. Grazie a Katia Pedrini, presidentessa di Modena Volley. Prima di chiudere andiamo a San Siro, perché è successo qualcosa, Dario. Si è cambiato il risultato, 77esimo di gioco, il Milan è in vantaggio grazie alla rete di Ante Rebic, in questo istante, proprio in questo istante viene sostituito da Leao, giusto in tempo ha fatto il croato per sbloccare la partita, c'è stata una palla persa a centrocampo dalla Roma, azione insistita di Rebic che ha triangolato con Paquetà, il cross sul secondo palo, l'intervento di Stelemakers, palla in mischia, Rebic la prima conclusione è stato bravissimo Mirante a respingere sul palo, il pallone è tornato verso il croato che a quel punto a botta sicura non ha fallito, quindi Milan in vantaggio per 1-0, un vantaggio veramente meritato dai rossoneri in questo secondo tempo che, come già accennavamo, ha visto appunto gli uomini di Pioli decisamente più intraprendenti, Roma sfilacciata e ben poco propositiva. 78esimo di gioco, quindi il gol di Rebic decide finora la sfida di San Siro, quel Rebic appena sostituito, come ricordavo, da Leao, Giovanni. Sì, decisamente meritato questo vantaggio, e tra l'altro il risultato che in questo momento spinge la Roma lontanissima, anche solo dall'ipotesi di una rimonta Champions. Noi abbiamo finito, ciao Carlo. Abbiamo finito, abbiamo anche perso Carlo Genta. Allora io mi fermo qui, ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Roberta Frisani e Valeria Bernardi in regia, Carlo Genta che saluto di nuovo, torna domani dopo il GR delle 14, ci risentiamo domenica in diretta alle 17 con tutti i convocati weekend. Ciao, oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.